Capitolo 3. Il racconto di Sabina. Sono Sabina, figlia di Mab. Ho vissuto la mia esistenza umana in un'epoca recente. Venni in manifestazione per riportare nel mondo, attraverso l'atto d'amore, antiche memorie dimenticate, ma fui considerata pazza dalla società e dai miei stessi familiari. Partii dal fondo della melma più vischiosa, come malata mentale, per risalire fino in cima con le mie sole forze, divenendo psichiatra. Tuttavia, in seguito, una volta compiuta la mia missione, scelsi i bambini come miei pazienti, poiché a loro nessuno pensava, ed io ero convinta che se fosse stato possibile insegnare a bambine e bambini ad essere liberi fin da piccoli, allora sarebbero divenuti adulti liberi. Nessuno voleva ricordare che anche nella più tenera infanzia abbiamo pulsioni sessuali e che ci viene violentemente insegnato che ciò è peccato e va soppresso. Le pulsioni sessuali provengono dalla stessa area del corpo dove risiede la pulsione alla sopravvivenza stessa e alla creatività. Esse accompagnano ogni essere vivente in ogni momento della sua esistenza. Questo fa parte della natura e della vita. Mio nonno era un rabbino e un alchimista, e mia madre era un medico. Io avevo bevuto al crogiuolo della scienza occulta fin da ragazzina, ma alla morte di mio nonno, mia madre decise di ignorare le implicazioni animiche e i messaggi occulti dell'alchimia e di conservare solo la parte manifesta, ripetibile, meccanica, la meno importante. Così tutte le mie tendenze medianiche furono bollate come nevrosi. Per questo, sentendomi sempre meno capita in casa, soprattutto da mia madre, la quale fingeva di non accorgersi delle mie capacità sensitive e del fatto che mio padre picchiava sistematicamente me e i miei fratelli, cominciai a fingere la pazzia fino a convincermene io stessa. Ma grazie a questo, fu ricoverata a 19 anni in una clinica della terra europea che chiamano Svizzera, con la diagnosi di isteria psicotica. L'isteria era considerata una malattia delle donne in quell'epoca, curata con elettroshock, bagni gelati e ipnosi quando la famiglia poteva permetterselo, violenze e umiliazioni quando ciò non era possibile. Quando non si vedevano miglioramenti, si procedeva ad asportare l'utero, da cui la malattia isteria prendeva il nome. Si scoprì poi che si trattava né più né meno che la repressione di emozioni e pulsioni legate alla sessualità femminile e al piacere. Ma nel momento in cui io ero in quel corpo, ciò era ancora di là da venire, poiché ancora non era riemerso che anche le donne provano piacere sessuale. Mi incarnai in una famiglia di nevrotici, così da essere sicura che sarei arrivata a colui dal quale volevo recuperare ciò che avevo depositato nella sua memoria cellulare in una vita anteriore. Mio padre, oltre a picchiarmi, mi costringeva a guardarlo picchiare i miei fratelli e mi costringeva a baciare la mano con cui ci aveva percossi. Mia madre, che come tutte le donne intelligenti di quell'epoca soffriva per il fatto di non essere un uomo, non pensava lontanamente a impedirglielo. Nella clinica svizzera di Burgölzli ritrovai colei che era già stata la mia adepta segreta quando vissi come alchimista in una vita anteriore. In quella vita lei si era incarnata come uomo, un giovane e brillante psichiatra di nome Carl Gustav Jung. Lui ed io avevamo già condiviso il sacro travaso durante la nostra precedente incarnazione inversa. Nell'altra vita, durante il terrore dell'Inquisizione, avevo travasato la conoscenza, i pensieri che non osavo scrivere né raccontare a nessuno perché troppo eretici, nel suo utero di donna, attraverso un procedimento di registrazione nella memoria cellulare che avveniva durante un amplesso. Lo chiamavamo Sacra Unione. Le dissi che al momento opportuno avrebbe saputo come recuperarla attraverso il risveglio delle memorie, e così fu. Questo amplesso non prevedeva che ci fosse coinvolgimento emozionale tra le due persone, erano invece fondamentali la fiducia, il rispetto e l'amicizia. Era a mia opinione che un modo di congiungersi rituale durante un atto sessuale permettesse il travaso della conoscenza dal maschio alla femmina, inserendola direttamente nella memoria cellulare, nel siero acquoso di cui le cellule sono piene, e avevo trovato conferma scientifica alla mia teoria nell'antico libro di alchimia dal nome Picatrix, che recitava: il meglio, la cosa più saggia, quando si vogliono ottenere risultati seri e veramente scientifici, è quello di prendere una giovane vergine appena formata e di addestrarla seriamente nel silenzio di uno studio, non con lo scopo di sbalordire il pubblico con la produzione di fenomeni fisiologici e fisici, ma allo scopo di farne un aiuto prezioso per la ricerca scientifica dei segreti della natura. In quell'altra vita, quando sentivo di dover depositare conoscenze nel suo corpo, le chiedevo di restare da me per la notte. La facevo scaldare ben bene davanti al fuoco, poi insieme bevevamo un po' di assenzio che ci rilassava e ci apriva i canali. E poi ci sdraiavamo e ci univamo in un atto così sacro e antico come la vita stessa. In questa vita, quando venne il momento, fu lui, nata uomo, a iniziare me alla sessualità. Io riassorbii da lui, che in quella vita per l'appunto era maschio, le memorie che avevo depositato in lui femmina nella nostra precedente incarnazione, e lo feci attraverso il sistema più veloce ed efficace, la cerimonia del sacro travaso durante un amplesso. Fu tramite me che a Carlo pervennero le immagini delle tue visioni, sorella Hildegard. Fu così che lui riscrisse le immagini delle tue visioni nella sua ultima opera che chiamano il Liber Novus. Per questo il mio angelo custode, che mi comunicava tutte le informazioni dai piani sottili, parlava tedesco. Eri tu, sorella Hildegard. In quella famiglia di nevrotici sviluppai una sorta di eccitazione sessuale quando assistevo alla umiliazione mia o dei miei fratelli. Il dolore era l'unica porta che mi era concessa per dare sfogo all'energia sessuale primitiva, l'energia vitale, riproduttiva, infinita. La gioia mi era preclusa. Lasciai scritte le mie ultime volontà nel mio diario mentre ero in cura con Karl. Bruciate il mio corpo e spargete le mie ceneri in un campo sotto una quercia. Il tuo Currach, la tua quercia, sorella Brigitte. Volevo essere sicura che il mio corpo tornasse alla madre. Karl non mi trattava come una malata, ma come una collega. Mi aveva riconosciuta. Volevo disperatamente studiare ed egli mi diede dei libri per cominciare. Il rabbino mi aveva comunicato, da bimba, che ero predestinata a qualcosa di grande, ma intorno a me ancora vedevo solo confusione, sofferenza e repressione. Karl mi liberò e con me liberò le memorie cellulari che come alchimista avevo impresso nel suo campo sottile, nell'altra vita. Questo intendevo quando scrissi che la saggezza atavica risiede nel subconscio. Mi riferivo alla memoria, depositata nel siero acquoso delle nostre cellule, della vita intera in ogni sua manifestazione. Siamo archivi viventi dell'evoluzione della vita e le mie memorie sciamaniche emergevano via via che si calmava il tumulto della mia sofferenza. Era quell'arte di guarigione attraverso la comprensione intuitiva del malato che avrei praticato un giorno con la mia psicoterapia, l'empatia, la base della pratica sciamanica. Mi laureai a 26 anni con una tesi sulla mia stessa malattia. Non si era mai visto prima. In realtà non feci altro che mettere per iscritto ciò che si chiama autosservazione. Io ero contemporaneamente la malata, la terapia e colei che documentava il processo di guarigione. Ero più seria, critica e indipendente degli altri studenti, che si limitavano a seguire pedissequamente chi aveva già aperto un cammino accademico. Io dovevo invece creare un cammino nuovo, ma non potevo farlo senza attingere alle memorie depositate nel corpo di Carla. Di fronte a lui, io mi sentivo languida e seduttiva, ma questa non era la mia indole solita. Con lui era diverso, era come se fossi sotto l'effetto di qualche sostanza. Mi sentivo al sicuro e libera di esprimere la mia natura più profonda. Così, sebbene nel primo tempo dell'università fossi anche io caduta nell'errore di rimpiangere di non essere un uomo, poi rimossi completamente questo falso sogno, poiché come uomo non avrei avuto accesso all'esperienza più profondamente mistica e potente di tutta quella vita, l'amplesso con Karl. L'isteria mi doveva portare da lui e solo a quello era finalizzata. Infatti, guarii in un solo anno. Proseguendo con la specularità delle nostre vite, sorella Hildegard, intrattenni una relazione epistolare con Jung e Freud come tu, a tua volta, vesti con il Barbarossa e Bernardo di Chiaravalle. A 25 anni io tenevo testa a quei due giganti senza ombra di timidezza o insicurezza. Mi convinsi che la piena espressione della potenza fisica del sesso, se consumato tra due corpi totalmente compatibili a livello animico, riporta all'unità ciò che fu diviso. Il due diviene uno, l'ego individuale si scioglie e viene riassimilato nel corpo unitario della vita stessa. Le due individualità singole muoiono per essere riunite nel sacro utero della dea. Questo era ciò che provavo nell'unire il mio corpo a quello di Carla, quando finalmente, dopo avere per un lungo periodo negato con tutte le sue forze la nostra reciproca attrazione, venne da me quel pomeriggio. Mi sembrò di entrare in una vasca di acqua pulita dopo mesi senza lavarmi. Il mio corpo gioiva completamente in quella unione che era risveglio, nutrimento e completezza. Ero così emozionata che non riuscivo a muovermi. Mi abbracciò e cominciò ad accarezzarmi e a spogliarmi, abbandonandosi finalmente all'istinto. La mia mente era impazzita, ma il corpo rispondeva alle sue mani. I suoi movimenti erano decisi e sapienti e riuscivano a sciogliere il mio terrore. Sentivo che lui aveva in mano la situazione e sapeva esattamente cosa fare e dove condurmi. Mi lasciai andare, spensi la mente. Quando si stese e mi attirò a sé, facendomi sedere sulla sua pancia, accadde un fatto che la ragione non può spiegare. Io, vergine e senza alcuna esperienza sessuale di coppia, io ricordai, sapevo cosa fare. Mi sentii trasportata in un'altra epoca, quando le donne, le sacerdotesse, utilizzavano la ritualità sessuale per ottenere conoscenza e condividerla con i loro partner. Quando l'amplesso era una forma di preghiera, io sapevo, perché io ero stata là, perché ero stata anch'io una di loro. Percepii la presenza di tutte le donne di conoscenza che avevano camminato sulla terra prima e accanto a me, e mi sentii potente, forte, consapevole. Lui era pronto ed io mi sedetti sopra il suo sesso eretto e cominciammo a muoverci. Le visioni e i ricordi si susseguivano senza sosta nella mia mente e il suo corpo steso rappresentava lo spazio, l'orizzontalità, la terra, il basso, mentre il mio corpo, seduto sopra di lui, rappresentava il tempo, la verticalità, il cielo, l'alto, come in un incrocio di assi nella ruota di medicina. Quando mi lasciai penetrare, fu come se mi si snebbiasse l'intera vita e cominciai a vedere. Nel punto esatto dell'unione dei due sessi si creò un punto di origine delle quattro direzioni, come il centro di una ruota di medicina. Nei nostri sessi congiunti si fermavano spazio e tempo. Muovendosi sul suo sesso dolcemente, il mio corpo si contraeva, il ventre rientrava e risucchiava il fluido vitale di lui verso la gola, per inviarlo alla testa e alla corona. Cominciai a sentire il fluido di lui salire, ma era un flusso energetico, non un'emissione di seme. Il nostro amplesso non terminò con il picco del piacere, bensì proseguì, producendo un graduale e sempre più intenso passaggio di energia, che si trasformò in una visione. A quel punto le sue mani si appoggiarono saldamente al mio petto ed io, per istinto, posai la mia mano sinistra sul suo petto e sollevai il braccio destro dritto al cielo, consegnandoci entrambi al completo risveglio della coscienza. Il risveglio delle memorie passava dal punto di congiunzione dei sessi e, grazie alla ritmica contrazione che si sviluppava a onde, come il movimento di un serpente, inviava le due energie congiunte in tutto il nostro essere. Lui divenne il punto di origine. Io fui l'universo, l'espansione dal punto di origine all'infinito, la madre e il figlio sempre veniente. E solo in quel momento si aprì la porta per le stelle e il cosmo stellato avvolse entrambi in un blu indaco intenso che ci riportò a casa. Persi la coscienza del corpo e mi sentii divenire polvere di stelle color cristallo, infinita nell'indaco del cosmo. Una gioia immensa, indescrivibile, mi riempì. Non avevo più limiti, non ero più una persona. Ero pura energia, espansa, qualcosa che trascendeva me e il mio corpo. Stavo riportando nel mondo dell'esperienza sensoriale una memoria antichissima, dimenticata. Il travaso delle anime nei reciproci corpi avvenne con un movimento pelvico ritmico lentissimo e molto piccolo. Il suo corpo ora stava sopra al mio, ma non esattamente sovrapposto, bensì un po' sbilanciato, con il tronco da una parte e le gambe dall'altra, come se i due corpi dovessero formare una forbice semiaperta. Quando, dopo il passaggio del flusso di energia, cessammo di essere opposti, positivo e negativo, e diventammo una nella sacra unione sessuale, sincronizzammo le spinte pelviche alle due fasi del respiro e chiudemmo il cerchio. Comprendemmo istintivamente che era necessario riuscire a respirare coi sessi uniti nel movimento pelvico per risvegliare la più antica memoria cellulare. Solo così maschio e femmina cessano di essere due poli opposti e diventano uno. Si uniscono come il Tao, come i due emisferi terrestri, come le due spirali della galassia e del DNA. L'unione sessuale respirata è la chiave d'accesso al tutto, alla grande opera alchemica che porta all'immortalità. Quando si respira col sesso, i corpi perdono la loro forma individuale e si annullano nel tutto. Va precisato che l'unione sacra non ha nulla a che vedere né con l'orgasmo né con l'amore, almeno non l'amore nel senso che gli veniva attribuito, perché è un'unione alchemica, energetica, dove il sentimento non c'entra, ma c'entra solo la forza chimica primordiale con cui le cellule si attraggono per realizzare il coagula alchemico dopo il solve. L'unione sacra e il risveglio di memorie si possono realizzare solo tra esseri androgini che hanno armonizzato in se stessi tutte le loro componenti. Quando un essere ha realizzato l'armonizzazione e la riunificazione di tutte le sue parti, sta bene in e con se stesso. Allora è pronto per incontrare e sposare alchemicamente l'altro che è la sua proiezione. Un altro essere completo e perfetto con cui fondersi in un'unità potenziata, poiché è un'unità composta dall'unione di due unità. Uno per uno dà ancora uno. Avevo letto in uno dei libri di Carl, il Wu Wei, dunque l'essere e il non essere sono entrambi Tao, colui che cerco sono io stesso, è la mia anima. Uno generò due, due generò tre e tre generò le miriadi e le miriadi ritornano nell'unità. Quindi il sacro amplesso si pratica tra esseri realizzati che hanno trovato come partner una perfetta proiezione olografica della propria consapevolezza di perfezione, due androgini che come nel Tao si fondono creando unità. Ecco perché questa è un'unione alchemica che va oltre l'amore. Feci mie le parole di Wu Wei. Wu Wei è la non resistenza, è il moto spontaneo. In ogni uomo c'è una tendenza al moto che, procedendo da Tao, tende a ricondurlo verso Tao. Gli uomini sarebbero veramente uomini se lasciassero la loro vita scorrere da se stessa, abbandonandosi alla potenza che li guida interiormente. Anche tu, sorella Hildegard, sostenevi che gli uomini e le donne potessero raggiungere il divino amandosi reciprocamente. Che tutta la terra diventi un giardino d'amore, scrivesti. È il potere dell'eternità stessa che ha creato l'unione fisica e decretato che due esseri umani debbano diventare fisicamente uno. Il sacro amplesso trasforma l'uomo e la donna in esseri divini. La sacerdotessa incarna la dea e poi dona la benedizione rigeneratrice all'uomo che tramite lei assurge a stati di coscienza ai quali da solo non potrebbe avere accesso. Nei tempi antichi, l'unione sacra era il perno di quella che veniva chiamata prostituzione del tempio. L'atto sessuale tra un uomo e la sacerdotessa era il mezzo per ricevere l'agnosi, per fare esperienza del divino. La sacerdotessa guidava la cerimonia in modo che l'amplesso producesse per entrambi i partecipanti benefici fisici, spirituali e magici. Il suo corpo diventava il canale per entrare in rapporto con la dea ed era l'unico modo in cui l'uomo potesse raggiungere il proprio compimento spirituale. Nei Vangeli gnostici, che lessi nonostante la mia eredità razziale ebrea, si diceva esplicitamente che anche Miriam Magdal, la compagna di Joshua, portava l'illuminazione attraverso la pratica del sacro amplesso. E nel Vangelo di Filippo erano elencati 5 riti di iniziazione che comprendono la camera nuziale come ultimo e più importante rito. Il ricordo della memoria dell'acqua si risvegliò in me durante quell'unico travolgente amplesso. L'acqua come archivio della vita, la base di quella che molti decenni dopo venne definita medicina frequenziale. Siamo fatti di acqua ed è attraverso di essa che le memorie attraversano lo spazio e il tempo nei nostri corpi. Ecco tutto ciò che ricordai mentre con Carl, quel pomeriggio, mi abbandonavo alla gioia e all'estasi dei sensi. Ma Emma, sua moglie, non rimase a guardare senza agire. Scrisse diverse lettere anonime, tra cui una a mia madre, mettendola in guardia. Tuttavia, Carl e io, come sapevamo entrambi, eravamo predestinati all'intensità annullante del nostro amplesso e non potevamo evitarlo. Io ero sua madre e lui mio padre, ma non di meno ci amammo perdutamente con ogni parte del nostro essere fisico e spirituale, perché nel luogo in cui ci incontrammo non vi erano distinzioni né definizioni, ma solo pura energia libera e condivisibile. Fuori dal letto, tuttavia, Carl fu debole e si comportò nella maniera più vile e meschina possibile. Per paura di uno scandalo che potesse compromettere la sua carriera e la sua tranquillità coniugale, negò tutto. Scrisse a Freud riguardo l'affare Spielrein, addossando a me tutta la responsabilità, sostenendo che avevo premeditato di sedurlo, quando invece era stato lui a venire da me nel mio appartamento di studentessa a Zurigo. Mi definì nevrotica e ingrata. Tutto questo arrivò alla mia conoscenza attraverso una lettera che Freud mi inviò, nella quale sosteneva che sicuramente avevo travisato le paterne e amichevoli attenzioni di Jung come mio medico. Furiosa, andai da Carl e lo obbligai a dire la verità, ad assumersi la sua responsabilità di fronte a colui che considerava suo mentore e padre spirituale, nonché a riaccreditarmi ai suoi occhi. Lo minacciai e lo ferii anche con un tagliacarte. Perché le tue visioni, sorella Hildegard, riemergessero dalle memorie che avevo risvegliato in lui attraverso quell'estasi sessuale, era cruciale che tra noi ci fosse chiarezza, onestà, fiducia e onore. Non potevo mantenere una relazione con chi mi mentiva e mentiva a se stesso. Egli scrisse a Freud la verità, cosicché quest'ultimo a sua volta mi inviò una lettera di scuse. Carl mi confessò che amava in me la forza, l'orgoglio, la mia tensione verso la libertà e l'indipendenza, ma mi scrisse che lui in realtà era un ipocrita filisteo e preferiva mantenere uno stile di vita decoroso nelle apparenze e tranquillo nella sostanza. Egli preferì rinnegare tutte le sue pulsioni e i desideri. In verità, quando io e Carl troncammo la nostra relazione, che durava ormai da 7 anni, lui cominciò a ritirarsi dalla vita, smise di curare gli altri e prese ad esistere in un suo mondo onirico e visionario. Le sue percezioni e conoscenze occulte ne furono ampliate e lui diede il meglio di sé come ricercatore, ma come uomo il suo meglio lo aveva lasciato nel mio letto. Tuttavia, che la nostra relazione non potesse durare era previsto già al momento delle nostre nascite, poiché il vero motivo del nostro rincontrarci in quella vita era il risveglio delle memorie dall'estasi sessuale, vissuta come via per l'immortalità e la divinità. Ciò nonostante, io desideravo che continuassimo a ispirarci a vicenda per il nostro lavoro di ricerca. Mia madre mi scrisse che un uomo non riesce a nutrire per la donna amata un sentimento di semplice amicizia. Mi consigliò di trovare un uomo buono e affettuoso che sposandomi mi sostenesse nel mio lavoro e contemporaneamente mi aiutasse a prendere le distanze sentimentali da Carl. Così feci e così ebbe inizio la seconda parte della mia vita. Le mie giornate all'università erano solitarie, ma io ero affamata di studio. Era stato Carl a darmi i primi libri, Nietzsche e Schopenhauer, quando ancora ero sua paziente. Leggevo, studiavo, scrivevo le mie osservazioni. Freud mi passò alcune sue pazienti che, essendo stata io stessa schizofrenica, ero in grado di comprendere e aiutare più di chiunque altra. Avevo compreso che il linguaggio della schizofrenia era in realtà la memoria di un linguaggio molto più antico, arcaico, che riaffiorava. Io riconoscevo nelle loro apparenti farneticazioni i simboli dell'inconscio e la fame d'amore, la paura di essere giudicate, il collegamento con gli altri piani di esistenza, i suoni e i concetti simbolici del tempo della dea, di cui tu, sorella Maria, avresti poi trovato tante prove. Le donne si aprivano con me, si fidavano, mi permettevano di aiutarle e contemporaneamente di studiare e scrivere le mie tesi. Mio padre mi scrisse che credeva in me e mia madre che avrei fatto per il mondo non meno di te, sorella Marie. Improvvisamente tutti riconoscevano la mia intelligenza e io divenivo ogni giorno più consapevole che avevo qualcosa di grande e nobile da creare e che non ero nata per vivere una vita ordinaria. Io sono la dea e governo un regno potente. Riaffioravano le mie memorie di bambina. Io posseggo un potere che è quello di generare. Con questo potere io posso sapere e ottenere tutto ciò che voglio. Il mio saggio sulla schizofrenia, studiata da un punto di vista endogeno e femminile, mi aprì le porte del mondo accademico. A 26 anni ero la seconda donna ammessa nella Società di Psicoanalisi di Vienna e sostenevo che la distruzione è all'origine dell'esistenza e che la morte è un atto creativo, poiché solo dalla morte della vecchia forma può nascerne una nuova. Questa era la memoria più antica che portavo dentro di me, la memoria che poi tu, sorella Maria, avresti confermato con le tue scoperte archeologiche. Nell'antica Europa, scrivesti, le società matrifocali che veneravano la dea non credevano alla morte. Credevano che la grande madre riprendesse nel suo grembo una forma che si disfaceva perché da quella se ne potesse creare un'altra. Ma naturalmente questo concetto era così lontano dalla religione dei miei antenati ebrei. Mi creò anche difficoltà con mio marito, che era un medico ebreo. Infatti, a un anno dal matrimonio, lui tornò in Russia. Ed io cominciai un pellegrinaggio tra Svizzera, Germania e Austria, senza pace e senza denaro, tranne quel poco che mi inviava la mia famiglia. Carl mi scriveva che era straordinario come lo sviluppo del nostro lavoro continuasse ad essere parallelo e collegato, nonostante la distanza. Io sapevo perché. Erano le memorie cellulari che si stavano risvegliando in lui, le stesse mie memorie. Nelle sue lettere mi assicurava, a dispetto della malinconia che io percepivo nelle sue parole, che aveva sublimato il nostro amore, creando teorie del tutto originali e rivoluzionarie che io gli avevo ispirato o di cui avevo messo il seme. Mi scriveva che forse un pezzo della sua anima era rimasta con me e un pezzo della mia con lui. Cercavo di prendere le distanze da lui, anche fisicamente, e cercavo il modo di onorare la mia missione, ma lo facevo vivendo al limite dell'indigenza insieme alla mia bambina. Cercavo istituti dove si curassero malattie mentali. Ero convinta che il risveglio delle memorie che avevamo operato tramite il nostro sacro amplesso sarebbe stato completo e operativo solo con la distruzione del nostro rapporto. Dalla distruzione la nascita, come avevo teorizzato. Ma non ero pronta per tornare in Russia, né per affrontare mia madre, colei che era stata a guardare senza intervenire, mentre mio padre da bambini ci picchiava. Fui la prima donna al mondo a pubblicare un saggio psicoanalitico sui disturbi dell'infanzia. Usai le mie teorie per comprendere e aprire le piccole menti dei bambini a me affidati. Mia figlia fu la mia maestra. Osservando lei mi si aprì un nuovo mondo di intuizioni e un enorme campo d'indagine. Ma Ero sola con la mia bambina. Il lavoro non mi veniva pagato e io dovevo mantenere entrambe. E infine, a 37 anni, dopo la morte di mia madre, tornai in Russia per dare il mio contributo alla rinascita della mia terra, con le nuovissime teorie psicoanalitiche da me apprese e create. A Mosca era stato aperto un istituto per lo studio della psicologia infantile. Il governo della rivoluzione cercava specialisti ed io lo ero. La dea mi stava mostrando chiaramente che la via da percorrere era tornare nella mia terra, dove aprii con la sorella Vera quello che venne chiamato l'asilo bianco. Fui accolta nella società di psicoanalisi russa. Tuttavia, avevo lasciato in terra svizzera i miei diari e annotazioni e le lettere di Jung. Presentivo che nella mia patria sarebbero state distrutte. Trovai il modo di onorare appieno la mia vocazione. Delineai il concetto di empatia, che nel linguaggio sciamanico dell'anima si chiama risonanza. Osservando mia figlia, mi resi conto che il neonato sperimenta l'amore e il piacere attraverso l'allattamento e che bambini liberi e sani sviluppano sin da subito la innata tendenza a comunicare e a relazionarsi con gli altri in modo armonioso. Compresi che ciò che permette alla madre di decodificare i bisogni e il linguaggio del neonato, fatto di brevi suoni, è proprio il rapporto di empatia. La madre sa cosa serve a suo figlio, senza bisogno che lui parli. Esiste un sistema di comunicazione sottile che non richiede parole né espresse né scritte. Nemmeno io sentivo il bisogno di codificare le mie scoperte in un trattato formale. Mi limitavo a comunicarle a Carl Jung via lettera. Il mio approccio allo studio era empirico, totalmente basato sull'esperienza, totalmente innovativo. Redigevo protocolli delle mie osservazioni, ma solo a titolo personale, io lo facevo per me. Furono anni pieni, ma brevi, poiché il Partito degli Uomini e della Guerra decise che la psicoanalisi era una perversione borghese. Il mio asilo bianco venne chiuso ed io mi trovai a dover svolgere la mia missione in modo clandestino. Lasciai Mosca e mi rifugiai nella città in cui ero nata, Rostov. Mi ero dedicata in quegli anni alla musica, che era l'altro mio talento e che avevo scoperto come utilizzare per curare la psiche infantile. La musica aiutava a dischiudere i pensieri e i cuori dei bimbi disturbati. Ottenevo successi inimmaginabili usando la musica, il gioco, l'attenzione, la pazienza, l'amore. I miei bambini avevano bisogno, come tutti noi, di una madre. Dall'uomo che avevo sposato, tornata in Russia, ebbi un'altra figlia, ma di nuovo arrivò l'onda della distruzione. Da una parte e dall'altra dell'Europa si bruciavano per opposti motivi le opere di Freud, i nazisti perché ebreo, gli stalinisti perché borghese. La psicoanalisi fu condannata, proibita, cancellata. Ebbi diverse occasioni di fuggire. Sapevo che la mia razza era minacciata, ma a quale scopo? Sfuggire a ciò che sapevo doveva accadere. Se non potevo esercitare la mia professione, per me era inutile rimanere incarnata in un corpo. Le mie esperienze scoperte erano state registrate sotto forma di lettere e sarebbero sopravvissute per tempi migliori. Avevo risvegliato le memorie depositate in Carl e messo il seme per lo studio e la comprensione delle menti dei bimbi. Questo era il vero motivo del mio ingresso in quel corpo. Quella missione era stata compiuta. Carl aveva messo tutto per iscritto, cosicché il sapere non potesse essere più dimenticato. Ora c'era un libro che avrebbe atteso in segreto ancora per molti anni, ma che alla fine sarebbe stato pubblicato, un libro rosso come il sangue lunare delle donne. In quella sua meravigliosa trascrizione delle memorie, avvenuta, come già avevi fatto tu, Hildegard, attraverso disegni e simboli, Karl fece di me la sua Salomè cieca, colei che taglia la testa, che elimina il cervello e il raziocinio. Senza la testa, l'unico modo per conoscere è attraverso l'esperienza diretta e l'intuizione, secondo la modalità sciamanica, e che io avevo risvegliato in lui e che lui poi teorizzò. E fu in quel libro, nel Liber Novus, che uccise Sigfrido, il figlio che non avemmo, simbolo del dominio dell'uomo di guerra, al quale oppose il gigante Isdubar, con le corna e l'asciabipenne, simboli della dea madre, il quale andava a Occidente a cercare l'immortalità. Nel Liber Novus, che chiamavano Libro Rosso, Karl mi definì figlia di Elia, simbolo della razza ebraica da cui provenivo. Mi fece dire, nei panni di Salomè, che noi due eravamo entrambi figli di Maria, ovvero della grande madre, e che ci saremmo amati. Così lui sublimò la nostra unione e poté continuare a viverla a distanza. In quella sua immensa ultima opera disegnò molte volte il serpente, ovvero il simbolo della sapienza femminile arcaica. Nel racconto, il serpente accompagnava il suo viaggio sciamanico, come pure l'albero alchemico e l'animale totem che egli esorta a conoscere e accettare. Le sue memorie sciamaniche si stavano risvegliando grazie a me. Lui mi diceva spesso: "Tu mi fai sentire cose". Nel racconto, Karl salvò il gigante Isdubar dandogli un nuovo nome, come nelle antiche guarigioni sciamaniche. Poi lo chiuse in un uovo cosmico e recitò 12 incantesimi che disegnò in tavole piene di colore e mistero. Da quell'uovo Isdubar rinacque dopo 3 giorni, unificando in sé l'est e l'ovest, le due porte del mondo. Il Santo Sepolcro, che è lo stesso grembo della Dea, ancora una volta, veniva onorato come l'unione della fine con l'inizio. Il concetto che dalla distruzione scaturisce la nuova nascita, che io avevo teorizzato, si era radicato sia in Jung che in Freud. Avevo con la mia vita di donna risvegliato in quei due grandi uomini la memoria ancestrale della Dea nel suo aspetto rigenerativo. Ora potevo consegnare il mio corpo alla sua fine e lasciai che così fosse. A Rostov fui arrestata e imprigionata con altri ebrei e tutti insieme fummo tolti dal mondo manifesto, per ironia della sorte, nel tempio del Dio degli ebrei. Avevo 57 anni e il mio testamento lo avevo scritto appena fanciulla, mentre pazza attendevo di rincontrare il mio amato Karl nella sua clinica. Avevo scritto che le mie ceneri fossero sparse in un grande prato, sotto una quercia. Il tuo Currach, la tua quercia, Brigid. Il mio ultimo pensiero cosciente fu che ero riuscita a conciliare nel corpo, in una unità armoniosa, l'istinto coi suoi simboli e pulsioni e la realtà ordinaria. Ma questa unità non era possibile viverla ulteriormente nel corpo. Avevo compiuto la mia missione. E ora potevo lasciarlo andare. Così io, Sabina, figlia di Mab, che conservo le memorie del sacro amplesso e del linguaggio arcaico in questo sacro cerchio, ho parlato. Sabina si alzò, si portò davanti a Hildegard e si inginocchiò davanti a lei, le baciò entrambe le mani e se le pose sul capo. Hildegard prese un po' d'acqua dalla ciotola accanto a sé e la versò sul capo di Sabina. Poi la fece alzare e la riaccompagnò al suo sedile di pietra. Quindi si erse, maestosa e bella come una dea, e si preparò a parlare.